Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e siamo rientrati noi di 451 frammenti sonori in questa nottata, devo dire abbastanza gelida, del 22, ormai 23 ottobre 2014. 451 frammenti sonori stasera. Qualcuno si sorprenderà forse della mia voce, ma sostituirò il grande impareggiabile Max Macchia, che saluto vivamente se per caso è in ascolto, per questa serata. Poi chiaramente, come abbiamo fatto per la puntata di apertura della stagione di 451 frammenti sonori, potrà essere anche possibile che condurremo insieme qualche puntata notturna, oppure lo sostituirò in altre occasioni, vedremo. Intanto ovviamente una buonanotte da Eliseo Scarpa, e questa nottata parte con una trasmissione che si riaggancia a una vecchia trasmissione del 2012 che avevamo condotto insieme, sempre all'interno di 451 frammenti sonori, ma in un altro spazio radiofonico che non voglio citare. E invece appunto stasera dentro Radio Fujiko inseriremo questo tema, questa tematica, la affronteremo in una sorta di secondo capitolo. Il titolo credo che sia abbastanza eloquente: Arbae McFry, punto esclamativo, in questo caso due. Ho creato questo nomignolo un po' scherzoso, La vendetta, la liberazione dal lavoro. Questo è il sottotitolo di questa trasmissione. Arbae McFry, lavoro non lavoro, era appunto la prima trasmissione che avevamo mandato in onda due anni fa, nel 2012, portando avanti un discorso chiaramente contro il lavoro. Noi abbiamo delle posizioni piuttosto radicali rispetto a questa tematica, che devo dire ho pensato fosse estremamente attuale, data la discussione in queste ultime settimane di Job Acts, di devastazioni sui diritti, in questo caso dei lavoratori, operate da un governo, il governo Renzi, che insomma mi sembra che stia facendo passare delle politiche di destra estrema quasi a livello di politica del lavoro, cosa che nessuno forse si aspettava, la guida del PD e del governo Renzi stesso. E dunque una tematica che era abbastanza calda ed era perfetta per riaffrontare il tema di Arbae McFry. Qualcuno sicuramente si ricorderà il disco, spero molti, storico di Arbae McFry, degli Area, uscito nel 1973, e poi insomma è abbastanza ovvio che era la scritta che campeggiava sui campi di concentramento appunto da parte dei nazisti: il lavoro rende liberi, in realtà appunto il lavoro rende schiavi, e la liberazione del lavoro sarebbe appunto un sogno che noi aneliamo, chissà mai che un giorno lo vedremo realizzare. Poi ovviamente cercheremo di estrinsecare, io parlo sempre al plurale, ma in realtà sono solo io, cercherò di estrinsecare un po' questa tematica, questo discorso legato alla liberazione dal lavoro. Ma iniziamo subito, perché sennò divento tedioso e pesante, iniziamo subito con un gruppo importante della scena industrial, ma non solo, perché si è mosso su terreno elettronici e sperimentali assoluti, una formazione tra le più interessanti di questi ultimi anni se non decenni, i Chrom, che sono usciti con il loro ultimo lavoro Feel It Like a Scientist, uscito proprio da poco, 2014. Andremo ad ascoltarci due tracce che aprono esattamente la rabbia, forse anche l'alienazione dal lavoro. Dunque inizieremo un percorso sonoro dall'angoscia, dalla ripetitività, dalla rabbia, anche dalla frustrazione legata al lavoro, fino a una sorta di percorso di fuoriuscite, fino a un momento totale di liberazione, una sorta di percorso sonoro che cercheremo di realizzare come appunto fuoriuscita dal lavoro e come liberazione dal lavoro stesso. Andiamoci comunque subito a sentire i Chrom da Feel It Like a Scientist. suono noise alla fine quasi a ricordare un meccanismo automatico, qualcosa di ripetitivo, un aspetto appunto chiaramente industrial di una formazione storica formata nella metà degli anni 70 e dunque ha una storia veramente decennale, formazione importantissima della scena industriale e non solo, formazione di San Francisco costituita dalle due teste pensanti fondamentali, Damon Edge e Elios Creed, ma anche con Aleph Cali come presenza ulteriore in questa formazione, in questo album, ultimissimo lavoro 2014, ultime recensioni, Feel It Like a Scientist. Dunque così abbiamo iniziato il nostro percorso sonoro all'interno del paesaggio, non so se dire liberatorio oppure almeno tendente alla liberazione dal lavoro, Arbaj McFry 2 La Vendetta, così l'abbiamo chiamato, la liberazione dal lavoro, e abbiamo iniziato con due brani estremamente forti, rabbiosi ma anche inquietanti e opprimenti, che rappresentano sicuramente, almeno cercheremo noi di rappresentare, l'idea del lavoro, di qualcosa appunto che chiude, blocca e diciamo può anche annullare le menti, la creatività, la vitalità, e costruisce appunto questo impianto robotico, seriale, meccanizzato, che costituisce il lavoro. I Chrome dunque aprono questo il percorso e continuiamo dentro la dimensione plumbea, plumbea potremmo dire anche rispetto al clima italiano, con questo attacco radicale agli ultimi proprio aneliti di diritti legati ai lavoratori, con l'attacco diretto all'articolo 18, ma non solo, controlli a distanza, meccanismi sempre più legati alla produzione, un lavoro che diventa totalmente schiavizzato agli interessi dell'impresa e in particolar modo, come noi amiamo dire, del capitale, del capitalismo italiano e direi anche della troica europea. E cercheremo appunto di estrinsecare anche meglio l'idea della liberazione dal lavoro, la nostra posizioni radicali vorrebbero creare almeno un'idea differente legata appunto a una vera e propria liberazione dal lavoro, ma purtroppo non sono neanche tempi facili dove affrontare questo argomento, ci sono continue rimostranze non solo chiaramente dei lavoratori che perdono il lavoro, ma tutta l'ideologia legata al lavoro, alla dignità, alla realizzazione. In questi anni di crisi moltissima gente rimaneva attonita, spaesata, perché si sentiva persa quando rischiava di perdere un lavoro, anche se precario, anche se sottopagato, anche se super sfruttato. Questo è il problema principale e purtroppo dobbiamo scontrarci chiaramente anche con la materialità delle cose. Ecco, noi non vogliamo passare per degli extraterrestri di altri mondi lontani dalla realtà. È chiaro che siamo dentro anche le lotte per quello che possiamo, cerchiamo di essere solidali nei confronti di molti lavoratori che combattono per difendere un posto di lavoro, o comunque ovviamente l'idea del reddito, che è un altro discorso legato appunto a un'idea differente, sganciata da una realizzazione lavoristica. Però è chiaro che facciamo i conti anche con questa realtà e cerchiamo di dialettizzarci, non mantenendoci fuori, non allontanandoci, non so, in un ermo, in un mondo sconosciuto, lontano, lottando giorno per giorno appunto con una concreta dimensione di contraddizioni, di ideologie imperanti, di media che continuano a martellare le menti rispetto alla questione del lavoro come realizzazione unica e onnicomprensiva dell'esistenza di ogni essere umano. Cercheremo appunto attraverso questo paesaggio di dimostrare, almeno a livello sonico, che una forma di fuoriuscita ci potrebbe essere. Dunque continuiamo il percorso, sempre dentro un'idea di rabbia, inquietudine, malessere, oppressione, dunque una sorta di visione plumbea, dunque anche di un ascolto plumbeo sonoro, e andiamo a pescare una formazione non così diciamo longeva come i Chrome, ma anch'essa abbastanza antica, tra virgolette, il termine antico poi non è una valenza sempre negativa. Si tratta di una formazione nata negli anni Ottanta, Sleep Chamber, formazione anch'essa dell'area industriale, una formazione che dentro l'industrial è cresciuta, ma caratterizzandosi anche con un interesse verso una sperimentazione elettronica e anche verso una musica concretista estremamente interessante. Formata da John Zewis nel 1980, Sleep Chamber ha continuato la sua attività per diversi anni, soprattutto negli anni Ottanta. Poi c'è stata una sorta di rallentamento per poi continuare ancora nel corso degli anni 90, degli anni 0, ma sicuramente i lavori più interessanti sono quelli datati nella decade anni 80. In particolare questo disco, che in realtà era una cassetta, giravano molto le cassette in una formazione ovviamente industrial, in una dimensione lo-fi tipica di una certa industrial, nel 1985 questo lavoro, Sigil 23, estremamente inquietante e opprimente, ce l'andiamo ad sentire, ma anche per rappresentare bene l'idea del percorso lavorativo, dunque della meccanicità e anche dell'inquietudine connesso a questo. Sleep Chamber. Thank you. E siamo rientrati in diretta, Arbae McFry, 451 frammenti sonori. Abbiamo ascoltato questo splendido flusso sonoro di Sleep Chamber da Sigil 23, 1985. L'aspetto industriale, come avrete notato, spero che abbiate notato, si interseca spesso anche con elementi tribali, no? Tribalisti che caratterizzano molta musica industriale. Anche in questo brano si sente appunto l'aspetto ossessivo, la marcia ossessiva ritmica e i suoni inquietanti in sottofondo, un'atmosfera sicuramente molto scura, ma anche una dimensione per certi versi che preannuncia quasi una volontà liberatoria, un ritorno alle origini, una dimensione appunto tribale che cerca almeno di sganciarsi dalla ripetitività e la monotonia legata al lavoro. E in questo tipo di atmosfera, da questo percorso, in questo percorso di fuoriuscita dal lavoro, quest'idea almeno sonora di costruzione di un percorso verso la liberazione dal lavoro, ci avviciniamo a un personaggio che molti diciamo troverebbero abbastanza incongruo in questo momento del percorso sonoro, che è ancora dentro la dimensione alienante e costretta del lavoro. Si tratta di Ryuichi Sakamoto, famosissimo autore ma estremamente aperto, eclettico e sperimentale nel corso della sua carriera, soprattutto in questi ultimi 10 anni, dove ha sperimentato, si è rimesso completamente in gioco cercando collaborazioni con grandi musicisti attuali, legati, nati negli anni 90 e negli anni 0 nell'ambito dell'elettronica più sperimentale, e si è avvicinato anche e soprattutto in questo album, in alcuni brani di questo percorso dell'album, a dimensioni che riecheggiano certa musica industriale, soprattutto quella più legata all'elemento elettronico e ambientale, seppur sempre scuro e opprimente. Sakamoto, dal disco Out of Noise, fuori dal rumore, del 2009, in realtà sta anche molto dentro l'aspetto noise, l'aspetto rumoristico, però si intravede ovviamente attraverso questo brano che abbiamo selezionato l'idea piano piano della fuoriuscita dalla dimensione liberatoria. Questo non vuol dire che noi diciamo anneliamo a una forma di liberazione dal lavoro quasi graduale, un po' socialdemocratica, no, questo no, avremmo voglia anzi che ci sia un momento rivoluzionario di rottura, di spaccatura netta, ma ovviamente qua siamo dentro un racconto sonoro e cerchiamo appunto di immaginarci un'idea sonora di fuoriuscita dalla meccanicità e dalla costrizione lavorativa verso una dimensione di totale liberazione creativa, esistenziale e anche umana. Andiamoci dunque a sentire questo brano un po' particolare, connesso alla grande esperienza e alla grande apertura mentale e compositiva di Ryuichi Sakamoto, da Out of Noise del 2009. Sono caduto, veni a fare, si legge noi a comare, vari che dai, così in auto, se così legge noi a comare, sono sui di cercare, si cosa i due si cosa mi ha detto, Out of Noise, Ryuichi Sakamoto, 451 frammenti sonori, Arbeid McFry, la liberazione dal lavoro, chissà cosa direbbe il buon Renzi o il cattivo Renzi direi, ascoltando questa trasmissione, secondo me non la sconterebbe mai, oltre tutti i contenuti credo che sarebbe inorridito da quello che stiamo dicendo, anzi da quello che sto dicendo. Mi viene sempre da parlare al plurale, secondo me è legato all'idea collettiva che è sempre presente, ma che in realtà non è così collettiva, perché stasera sono solo io a trattare questa materia. Sarebbe bello creare anche, che ne so, un dibattito radiofonico musicale legato a questo percorso, a quest'idea della liberazione dal lavoro, che sembra così lontana a livello concettuale, a livello di battaglia politica, rispetto a degli anni dove appunto sono tutti a ricercare il lavoro, ma non per il lavoro, ecco, in molti casi proprio per il reddito, per campare, come si dice, anche se purtroppo ancora si sentono molti affrontare la disperazione non soltanto reddituale ma anche esistenziale con l'assenza del lavoro. Casi che ho visto, ho letto di persone, che lavoratori che rientravano nelle fabbriche dismesse semplicemente con nostalgia, con rancore, perché hanno perso quella dimensione di realizzazione personale. Questo secondo me è estremamente inquietante, ma probabilmente siamo ancora dentro, in questo caso, il Novecento, e dovremmo ancora fare parecchia strada per liberarci da questa ideologia imperante che il capitale vuole essere presente proprio per il controllo esistenziale di ogni individuo e della dimensione più ampia sociale esistente nel nostro caro, simpatico mondo occidentale, così democratico, così libero da rendere sempre più schiavi i lavoratori e le lavoratrici, sempre più schiavi gli individui nella dimensione di controllo totalizzante. E da questa mia assertazione un po' negativa, molto negativa, andiamo a attraversare l'universo di un'altra formazione che nasce come formazione industrial ma anche noise nella scena di Boston del 1978, poi spostatosi a New York. Si tratta di una formazione anch'essa molto conosciuta nella scena industrial, si tratta di Control Bleeding, formazione appunto nata a fine degli anni 70, che ha continuato la sua produzione musicale con una grandissima, eccezionale apertura. Attraversa la sua storia, attraversa generi e linguaggi molto differenti, appunto dall'industrial noise all'ambient, ma anche il free jazz e anche dimensioni dub, fino ad arrivare anche a connotazioni legate alla musica concreta. Sicuramente una formazione estremamente importante, formazione nata con Paul Lemons, Jack Salerno, Dave Sutherland, Gary Pecorino, che fa anche un po' ridere, e Tony Meola, un po' italiani devo dire come origini sicuramente questi musicisti fondatori di Control Bleeding. Ci andiamo a sentire un disco degli anni 90, del 1996, produzione quella dei Control Bleeding degli anni 80 estremamente feconda, hanno realizzato tra cassette e LP una marea di lavori, ma anche negli anni 90 hanno continuato a elaborare il loro percorso, ad aprirsi anche a mettersi in discussione, fino ad arrivare agli anni zero, dove le produzioni si sono via via un po' diradate, fino all'ultimo album del 2011 uscito per la Soleil Moon Recordings. L'album invece in questione, che appunto del 1996, è un album uscito in realtà per l'etichetta Hypnotic. Si tratta di Inanition, e ce l'andiamo a sentire sempre nel percorso e nel suono che ispira appunto la fuoriuscita dal lavoro e incomincia a intravedere l'idea liberatoria, il momento di massima espressione e di massima liberazione individuale e personale. Control Bleeding.